24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:30 minuti in quest'istante. Buongiorno cari ascoltatori, 24 mattino. Allora, il sondaggio di oggi. Allora, un paio di giorni fa è morto a 101 anni il padre dell'omeopatia italiana, il dottor Negro. E allora vi chiediamo questo: voi vi fidate dell'omeopatia? Ne parleremo alle 8:30, un tema molto dibattuto. C'è chi la considera una medicina a tutti gli effetti, c'è chi la considera nulla, solo una grande truffa. Ne parleremo con due ospiti che la pensano in modo contrapposto. Voi dovete votare su radio24.it nell'home page, bianco o nero. Vi fidate dell'omeopatia? State votando in molti e per ora il 62% dice di no, non ci fidiamo. Ne parliamo dopo, ora la lettura dei giornali. In primo piano. Le urne sono aperte, come sapete, dunque... con molta cautela, ma andiamo a leggere le aperture dei giornali. C'è qualcosa di politica, di elezioni. Quello che si può dire: intanto il voto, affluenza giù del 9% per il Corriere della Sera. Repubblica e La Stampa fanno lo stesso titolo. Regionali, crolla l'affluenza. Per il Giornale, poche ore per fermare la sinistra. Per l'Unità, ultimo scatto, c'è un maratone, le gambe di un maratoneta. Si vota anche oggi, regionale, affluenza in calo per il Messaggero. Insomma, questo è il tema sicuramente che è emerso dalla prima giornata di voto, con una forte astensione. Cosa si può dire? Tante cose no. Vediamo quello che si può dire nella lettura dei giornali. Intanto quello che sia per il Messaggero sia per il Corriere, per Repubblica, si profila come il rischio di tante contestazioni. Dove? Nella regione Lazio. Roma, già scatta lo scontro sullo spoglio delle schede. Questo è il titolo del Messaggero, mentre il Corriere lo propone così: la prefettura non chiarisce le regole ed è scontro PD-PDL. Qual è il tema in questione? Tutto nasce, scrive il Messaggero, dalla formazione di alcuni esponenti del PDL. Nei casi in cui dovesse comparire sulla scheda elettorale, accanto all'indicazione della scelta del presidente, una preferenza con un nome che in realtà non è candidato, il voto dovrà comunque essere ritenuto valido secondo il PDL. Sapete che c'è la questione che in provincia di Roma non c'è stata la presentazione delle liste del PDL per tutto quel pasticcio che si è generato, però dal PDL dicono: se uno scrive il nome di una persona che non è candidata, il voto, almeno per il presidente, deve essere ritenuto valido. Dal PD invece replicano: no, attenzione, se uno indica una persona che non è candidata è un modo per riconoscere la scheda e dunque il voto va invalidato. Ora, tutti gli occhi erano puntati sulla prefettura. La prefettura si è espressa così: si ritiene che è nullo il voto che contiene l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, e dunque parrebbe chiusa così. Però la prefettura ha aggiunto: in alcuni casi si può ritenere però che l'errore dell'elettore sia dovuto ad ignoranza, e in questo caso allora potrebbe essere valido il voto. Insomma, la mia personalissima e che conta nulla previsione è che sarà un gran casino di contestazioni per queste tipologie di schede nella regione Lazio. Deciderà di volta in volta, scheda perché scheda, nel caso dovesse presentarsi questa situazione, il presidente di seggio. Fanno sapere che sono già molto agguerriti i cosiddetti 5.000 gladiatori, così definiti, a fianco del centrodestra, insomma, quelli che anche perché la questione è legata soprattutto al centrodestra, visto che non sono presenti le liste del PDL nella provincia di Roma. Che altro si può dire? Il Corriere della Sera segue a pagina 9 la giornata elettorale di due presidenti uscenti, vale a dire Galan nel Veneto per il centrodestra e Bassolino del centro-sinistra in campagna, perché insomma è il loro ultimo giorno da presidenti. Galan si sfoga e dice il Veneto è stato svenduto. Bassolino anche lui un po' si sfoga, il PD mi rispetti, attacchi dal centro-sinistra, insomma un po' di amarezza ovviamente per loro due che lasciano dopo tanti anni a capo delle rispettive regioni. Anche se la notizia, l'intervista del giorno la devo leggere, perché sono volate botte da Orbi in quel di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta Andria Trani, dove sono volate botte da Orbi appunto tra la candidata sindaco Gabriella Carlucci del PDL e una consigliera, una candidata al consiglio comunale del PD, vale a dire Antonella Cusmai. Che è successo nei giorni scorsi a un convegno, a un diciamo come dire a una presentazione elettorale da parte di Gabriella Carlucci del PDL, si è presentata Antonella Cusmai del PD. Ovviamente per la Carlucci è stata una provocazione e ci sono alzate le mani sostanzialmente. Si sono alzate le mani e attenzione, perché Fabrizio Roncone intervista Antonella Cusmai del PD, che si presenta con tanto di collare al collo. La Carlucci è magra ma fortissima, io ho soltanto urlato e le ho prese. Oh signore, inizia così l'intervista, anche adesso per stare con lei al telefono non ha idea di che fitta ha la cervicale, come avere un ago conficcato, mi creda, che dolore. E Fabrizio Roncone dice: parli piano. Sì sì, parliamo piano, sono stata picchiata dalla Carlucci. Ma vi siete picchiate? No, no, è lei che mi ha dato mazzate da dietro, tum, tum, certi spintoni. Scusi, l'onorevole Carlucci è una donna elegante e magra. Come tutte le donne magre è ossuta, un fascio di nervi, ha una forza quella donna. Del resto il referto medico del pronto soccorso parla chiaro, trauma da contraccolpo. Insomma, due donne che se ne sono date di santa ragione. Con Antonella Cusmai del PD che dice della Carlucci aveva gli occhi di fuori, il respiro affannato, ansimava di rabbia, da dietro, tum, tum, mi ha sbattuto via come fossi un manichino. La denuncerà? Non lo so, ci sto pensando. Insomma, è finita in mega rissa, così pare almeno, a Margherita di Savoia. Un'altra intervista, un'altra dichiarazione dell'attore Giulio Scarpati, quello che interpreta un medico in famiglia, che si è molto adombrato perché è finito in un manifesto elettorale di un candidato sindaco ad Albano Laziale del PDL. Dice: ma come, insomma, la politica marketing, proprio io che sono di sinistra sono finito in questa brochure, e partiranno azioni legali. Vabbè, questa è la vicenda elettorale, ripeto, si vota fino alle 15, poi come abbiamo sentito già anche in GR24 ci sarà un lungo speciale a partire proprio dalle 15 su Radio 24, ne parleremo anche noi domattina, ovviamente il dopo voto con tutti i risultati. La notizia politica del giorno però la troviamo solo su Repubblica, che l'anticipa e sicuramente susciterà, se confermata, grande scalpore polemiche. Mafia, sotto inchiesta Lombardo, è il presidente della regione Sicilia, concorso esterno con i boss. Il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, scrivono i due giornalisti Francesco Viviano e Alessandra Ziniti. Il governatore Lombardo e suo fratello Angelo sono indagati a Catania con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, una decisione presa dalla procura etnea sulla base di un corposo rapporto di 3.000 pagine confezionato dai carabinieri del ROS. Il dossier è all'esame del procuratore Salvatore D'Agata e fa riferimento alle relazioni tra il governatore e il fratello deputato nazionale con alcuni boss. Nel faldone che Repubblica dice essere top secret spiccano le rivelazioni di un pentito e le intercettazioni telefoniche ambientali che documenterebbero i contatti tra il capo assoluto della mafia catanese Vincenzo Aiello e i fratelli Lombardo. Nel Diciamo, nell'inchiesta è finito anche un deputato regionale dell'UDC, vale a dire Fausto Fagone, il sindaco di Palagonia, altri sindaci di comuni catanesi. Insomma, tutte queste persone, secondo l'accusa e secondo questo dossier anticipato alla Repubblica, sarebbero state elette grazie al massiccio appoggio e impegno delle cosche mafiose del clan storico di Cosa Nostra che faceva capo a Nitto Santa Paola e che ora è capitanato da Vincenzo Aiello. Si parla appunto di conversazioni intercettate, non c'è nulla di anticipato, ma insomma si parla di intercettazioni sia ambientali che telefoniche. C'è anche già un articolo molto duro di Attilio Bolzoni: un califfo nella palude siciliana, anche il neo boss Liga bussò da lui. Questo è il titolo dell'articolo, l'analisi dedicata al presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo. Beh, certo, farà sicuramente scalpore questo articolo, susciterà polemiche, immagino anche reazioni dello stesso Raffaele Lombardo, a capo della regione siciliana. Abbandoniamo la politica e veniamo ai temi economici. Prima di sfogliare il Sole 24 Ore, la notizia economica del giorno sicuramente che voglio leggere dal Corriere, non la trovate sul Sole perché la notizia è ufficializzata ieri e sapete che il Sole 24 Ore del lunedì invece è più ampio, dedicato ad altri temi, è chiuso prima. Ebbene, la notizia del giorno è questa: il fatto che la Volvo, la casa automobilistica svedese, è finita ai cinesi. I cinesi conquistano la Volvo e scalano la tecnologia europea. Massimo Gaggi ne parla sul Corriere della Sera. Chi ha comprato la Volvo? La Volvo, ieri c'è stata la firma a Göteborg, è stata pagata dalla Zhejiang Geely, il maggiore tra gli industriali privati cinesi dell'auto. L'ha pagata 1,8 miliardi di dollari. È un'azienda di Li Shufu, eccolo, il nuovo proprietario della Volvo. Dimensioni produttive più o meno analoghe a quelle della Volvo, ma una società in rapidissimo sviluppo. Quest'anno conta di vendere 410.000 veicoli e vuole arrivare a quota 2 milioni entro il 2015, anche grazie alla Volvo. Chi è Li Shufu? È questo 47enne venuto dalla campagna che dal nulla ha costruito un impero passando dalla fotografia alla costruzione di componenti per frigoriferi alle motociclette, infine alle auto. Un sognatore che ama pensare in grande ma che fino ad ora è riuscito a realizzare anche i progetti più temerari. All'inizio era stato preso sotto gamba anche un tipo un po' eccentrico, secondo Massimo Gaggi. Gira per Shanghai con un taxi londinese dipinto di bianco. Addirittura è un poeta i cui versi sono intessuti nel gigantesco tappeto che riempie l'ingresso del suo quartier generale. Insomma, una sorta di sognatore, ma anche molto pragmatico, molto con i tratti, dice, tipici, molto duri dei Rockefeller, dei Carnegie, dell'imprenditore molto molto tosto, che sa quel che vuole e che si è comprato la Volvo. La Volvo dunque va ai cinesi. Vediamo appunto a questo punto il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore del lunedì: in casa lavori più rapidi per la metà dei comuni, questo è il titolo di apertura. Ci si concentra sul decreto di cui avevamo già parlato la settimana scorsa, il decreto approvato di recente dal governo e che in sostanza prevede di iniziare molti lavori, di fare lavori in casa più rapidamente, perché si possono iniziare senza l'obbligo di presentare la denuncia di inizio attività, la famosa DIA. Attenzione, perché il Sole 24 Ore aveva spiegato molto bene nei giorni scorsi che questo decreto in realtà non si può applicare in molte regioni italiane di fatto. Perché non si può applicare in molte regioni che hanno già imbracciato delle loro normative e che in qualche modo dunque prevalgono sulla normativa, sul decreto fatto dal governo. Queste regioni, 8 regioni più le province di Trento e Bolzano, che hanno dettato proprie leggi, vale a dire Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, cioè in totale 3.850 comuni, qui le regole restano invariate praticamente, cioè la DIA ci vorrà comunque. Mentre negli altri municipi, in 4.200 municipi e in queste regioni, 9 per la precisione, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto, Qui non c'è una disciplina regionale per il mattone e dunque si applica direttamente quella nazionale. Ecco che il Sole 24 Ore oggi spiega molto bene cosa cambia con il fatto che si può fare lavori più facilmente, il bagno, le finestre, le facciate, i monolocali, il cambio d'uso, tutto questo senza la necessità di presentare la DIA iniziando subito i lavori. Leggete tutto a pagina 3 del Sole 24 Ore da questo punto di vista. In primo piano. Solo il fondo può salvare la pensione, questo è il titolo dell'articolo che trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore, perché è un momento importante dell'anno. Infatti giovedì 1 aprile sarà il primo giorno da ex per molti lavoratori dipendenti autonomi, scrive Salvatore Padula. Si apre la finestra di pensionamento sia per chi ha raggiunto i requisiti per la vecchiaia sia per chi ha maturato un'anzianità contributiva di 40 anni. Allora, qui su questa pagina del Sole 24 Ore trovate un po' di calcoli, anche il mosaico della copertura per chi lascia il lavoro e anche un'analisi di Elsa Fornero sul difficile equilibrio dei conti, insomma il tema delicato delle pensioni e questa analisi anche della Ragioneria dello Stato, secondo la quale in pratica da qui al 2050, secondo i calcoli aggiornati, le pensioni tenderanno a ridursi fino a punte del 30% rispetto ai livelli attuali. Questo lo leggete sul Sole 24 Ore, mentre vi segnalo che anche il Corriere della Sera, nell'inserto Corriere Economia, ha una guida sulle pensioni, sono 8 pagine, dall'anzianità alla vecchiaia, le finestre e i coefficienti di calcolo, tutto quello che serve sapere, sono 8 pagine Corriere Pensioni all'interno dell'inserto dell'economia, che faranno sicuramente comodo, saranno utili per orientarsi per chi magari insomma è pronto a quella fase della vita. Voglio rimanere sul Corriere della Sera, ma lo troviamo un po' ovunque in realtà, il tema degli abusi e della Chiesa, perché è un tema che ancora campeggia sui giornali, ancora ci sono tante pagine. Per esempio, le novità sono di questo tipo. A Vienna il cardinal Schönborn, tra l'altro uno molto vicino a Papa Ratzinger, ha deciso di mettere in piedi una commissione che sarà presieduta da una donna, Waltraud Klasnic, ex governatrice della provincia della Stiria, 64 anni, 3 figli, che dovrà appunto esaminare e indagherà sui sacerdoti austriaci. Una donna indagherà sui sacerdoti austriaci, sarà laica e indipendente, così ha definito la commissione il cardinale Schönborn. Mentre il cardinal Martini, lo abbiamo sentito in GR24, è tornato, in questo caso in un'intervista a Die Presse, è tornato il quotidiano austriaco Die Presse al tema del celibato. Bisogna ripensare il celibato dei preti, ha detto il cardinal Martini. Lo evidenzia molto bene La Stampa a pagina 6. L'obbligo del celibato per i preti dovrebbe essere ripensato, ribadisce Martini in questa intervista. Questioni di fondo della sessualità vanno ripensate alla base del dialogo con le nuove generazioni. Una posizione, tra l'altro, che subito viene rintuzzata in maniera molto dura dal cardinal Casper, che sempre sulla Stampa è intervistato dal vaticanista Giacomo Galeazzi, e che è molto duro, dice: abolire il celibato ridurrebbe gli abusi sessuali del clero? Assolutamente no, dice Casper. Di sicuro il celibato non ha nulla a che vedere con gli abusi del clero sui minori. Si torna a parlarne per una strumentalizzazione dei casi di pedofilia. Chiamare in causa il celibato è un vero e proprio abuso degli abusi, dice il cardinal Casper. Sulla posizione, insomma, il celibato dei preti in realtà, sappiamo, non è un dogma di fede, ma è una regola, insomma, è una regola stabilita negli anni, nei secoli, per quel che riguarda la Chiesa Cattolica Romana, ovviamente. E dice il cardinal Casper, appunto, il celibato effettivamente non è un dogma, è una tradizione molto antica che conserva intatto il proprio senso, quindi non c'è motivo per rivedere la legislazione e modificare lo stato delle cose. Così dice il cardinal Casper, mentre Repubblica riporta un articolo del New York Times: quelle violenze nello sgabuzzino, il mio calvario con padre Murphy. È il racconto davvero incredibile, davvero molto molto duro, di Stephen Geyer. Stephen Geyer è una delle vittime del cardinal Murphy, colui che è stato accusato di avere compiuto tantissimi abusi negli anni, nel corso di decenni, in Wisconsin. È il famoso reverendo per il quale è arrivata l'accusa del New York Times. Ratzinger sapeva, ma non fece nulla. Racconta questo Stephen Geyer: mi molestò 4 volte in uno sgabuzzino dicendo che Dio voleva gli insegnasse il sesso. Ma non voleva parlarne, non dovevo parlarne perché ero sotto il sacramento della confessione. Ovviamente, che cosa c'è di più orrendo in questa storia? Che erano tutte queste vittime, la maggior parte sordi, erano nell'istituto dei sordi, per cui c'è anche il dramma, racconta il New York Times, di queste persone che denunciarono a segni, a gesti, in tutti i modi possibili. Ne parlarono con non solo con sacerdoti, lo dissero anche a 3 arcivescovi di Milwaukee, a 2 dipartimenti della polizia distrettuale, al procuratore, ma scrive il New York Times, chi ci sentiva benissimo rimase sordo alle loro denunce. È una storia molto dura, molto toccante, che Repubblica riporta a pagina 11. Traducendola dal New York Times. Veniamo alla cronaca. Io ho scelto come storia più emblematica questa che è riportata anche oggi dal secolo XIX. Ora viene definita da chi l'ha fatta come una bravata, un qualcosa insomma per colpire con un gesto che è un gesto di grande stupidità, ma che loro identificavano come un gesto coraggioso, le ragazzine. Cioè sono 13 ragazzi che, così, non si sa se per sfida, per stupidità sicuramente, per ingenuità, per un gesto così di pseudo coraggio, hanno attraversato un paio di volte l'autostrada A7 all'altezza di Genova, all'altezza di Bolzaneto. Sono stati presi dalla polizia. Hanno detto abbiamo fatto una bravata, secondo il Corriere della Sera viene definito così, addirittura volevano in qualche modo entrare, no, secondo Repubblica, hanno sfidato la morte per entrare a far parte di una banda, una sorta di rito di iniziazione, anche per il Messaggero, gioco folle in autostrada, ragazzi corrono tra le macchine, davvero una storia incredibile. Oggi il secolo XIX ci torna con 2 pagine, è stata una bravata, parlano amici e genitori degli adolescenti che attraversavano l'autostrada per gioco. C'è ovviamente anche i carabinieri che dicono tutto spaventoso, ci hanno detto l'abbiamo fatto così per dimostrare il nostro coraggio. Voglio andare come segnalazione conclusiva, vi segnalo una imperdibile, ovviamente è molto ironica, intervista di Vittorio Emanuele, il capo di Casa Savoia, al Giornale, a pagina 18, in cui parla della storia, delle leggi razziali, insomma suo nonno eccetera, il fascismo, le sue inchieste, tutta una vergogna, e conclude con i fischi per il figlio a Sanremo sono di una strettissima minoranza, come sempre. Se avete tempo un po' da perdere, il Giornale, pagina 18. Infine la notizia che viene da Repubblica, la cito perché riguarda un qualcosa che coinvolge tutti noi: allarme junk food. Junk food vale a dire, insomma, l'hamburger, no? Tanto per identificarlo così. È come una droga. È una ricerca fatta in America su dei poveri topolini che sostanzialmente, dopo un mese a base di bacon, salsicce, torte, cioccolato, erano talmente drogati, tra virgolette, che cercavano necessariamente queste pietanze, anche se gli si mettevano delle piccole scariche elettriche, loro andavano e volevano mangiare queste cose. E quindi da qui l'allarme anche per gli uomini: questo junk food, patatine, merendine, sono come una droga, cioè più ne mangiamo e più ne abbiamo bisogno, è che non fanno molto bene, tanto che il presidente di Slow Food, Carlo Petrini, lancia su Repubblica, accompagnando questo articolo, un vero e proprio boicottaggio: boicottiamo le bibite, i grassi, le merendine, questo cibo schifoso, cibo spazzatura, boicottiamolo, non compriamolo più. Votate il sondaggio, l'omeopatia, voi vi fidate? Su radio24.it, bianco o nero, dovete votare lì. Sono le 8:17 minuti, eccoci rientrati in diretta 24 mattino, al momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani rinfrancata. Da che cosa? Dal pareggio con l'Atalanta. No, hai vinto con l'Atalanta. Ah sì, con la vinto con l'Atalanta. Ah, non ci sono più abituata. Attenzione, eh? No, ormai l'ha abbandonato il calcio, neanche guarda più i risultati. Esatto, è convinta, esatto, già che esatto. Avete vinto. Ah sì? Sì, avete preso anche qualche sberlone da qualche pseudo idiota tifoso. Non ho visto niente questo fine settimana. Allora legale mi ha devastata letteralmente. Vabbè, infatti vabbè. Perché Alessandro Buono non descrive la mia faccia di stamattina, no, ma è tutto un programma. Ma vai, quella di sempre, figuriamoci. Parliamo di incidenti d'auto stamattina. Il tema non è molto bello, anche perché siamo reduci da un fine settimana in cui le cronache ci hanno raccontato di un vero e proprio esplosione di incidenti anche mortali, oltre 20 le persone vittime degli incidenti del fine settimana, ma noi stamattina ci focalizziamo soprattutto su un articolo, un approfondimento del Sole 24 Ore di oggi, curato dal nostro Maurizio Caprino. Incidenti record per i pirati della polizza, i risarcimenti a carico del fondo vittime della strada per i veicoli non coperti sono aumentati nel 2008 del 40% e la crisi non risparmia auto, l'auto in troppi sono senza RC auto. Allora noi stamattina vorremmo capire come funziona questo fondo e qual è davvero l'entità di questo fenomeno. Ci aiuta Fabrizio Premuti, nostro amico di AD Consum, referente per le problematiche legate al settore assicurativo, oltre che segretario nazionale di questa associazione dei consumatori. Premuti, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Grazie, buongiorno. Allora, il Sole racconta gli incidenti stradali per i quali il risarcimento è stato pagato non dall'effettivo responsabile ma dal fondo di garanzia per le vittime della strada. Gli incidenti appunto sono aumentati, lo dicevamo prima, del 40% nel 2008, ma in prima pagina Maurizio Caprino scrive: si dice che a Roma l'anno scorso siano stati scoperti 10.000 veicoli che circolavano senza assicurazione. Di certo nel 2008 sono stati più di 8.000 e i vigili che stanno ultimando i conti del 2009 parlano di sensibile aumento a causa della crisi e della disponibilità di polizze false. C'è anche un mercato molto ben organizzato di queste, i cui prezzi stanno addirittura scendendo, per cui chiaramente alimentano l'attenzione degli automobilisti. Allora Premuti, da che cosa cominciamo? Da questo mercato nero delle polizze o dal funzionamento del fondo di garanzia per le vittime della strada? Perché poi alla fine sono anche due fenomeni intimamente collegati. Ma io partirei proprio dal problema legato alle polizze false. Qui c'è una situazione che è assolutamente sostante. Le cifre che abbiamo sentito, perché Maurizio riporta nella pagina di oggi del 24 ore, purtroppo sono cifre che riguardano esclusivamente. Premuti, mi ascolti? Noi non la sentiamo molto bene. Guardi, facciamo una cosa. Adesso chiedo alla mia collaboratrice, a Sara Sprefico, se riesce a ripristinare la telefonata, così magari riusciamo a fare anche un collegamento appunto dal punto di vista qualitativo migliore, perché oltretutto non vorremmo anche che Premuti fosse in strada con il cellulare e si creasse appunto anche qualche... Speriamo che abbia l'auricolare, appunto cerchiamo di fare un collegamento migliore. Ci ha colpito molto questo articolo appunto di Maurizio Caprino, perché effettivamente io pensavo che entrasse in funzione questo fondo di garanzia per le vittime della strada solo davvero in casi eccezionali, invece vedo che in pratica è stato talmente utilizzato al punto tale che potrebbe essere anche necessario alimentarlo maggiormente. Non riusciamo a recuperarlo con il cellulare. Adesso stiamo provando, sì. Insomma, sarà in una zona di campo. Sì, guarda, quella, una cosa incredibile, no? Tra l'altro no, l'abbiamo sentito anche prima della nostra diretta telefonica, la telefonata si sentiva molto bene. No, dicevo che io pensavo che appunto che questo fondo si utilizzasse solamente in circostanze straordinarie, invece c'è stato proprio un boom degli esborsi del fondo, al punto tale che sarà necessario magari alimentarlo maggiormente, siccome l'alimentazione di questo fondo avviene con un contributo che arriva proprio dall'RC Auto, che è di circa il 2,5% per ogni premio. Non riusciamo appunto a fare questo collegamento. E niente, Alessandro, io non so, a questo punto quasi ti ridò la linea, oppure posso problema. Appunto continuare a raccontare come funziona. Raccontiamo un attimo, ora ci dicono. Ci riproviamo ancora una volta. La radio, sì, è bella, esatto, per è bello cose. Adesso Sara Sprefico parla, ha un labiale e quindi sì, pare potrebbe che la telefonata esserci. Sia stata Premuti, stamattina mi fa proprio soffrire. Purtroppo sono in viaggio. Si fermi lì. Allora, io stavo dicendo, allora cominciamo dal mercato, riprendiamo dal mercato, come dire, delle polizze false, che è un mercato letteralmente, come dire, parallelo. Chiamarlo mercato è anche forse non corretto, comunque in espansione. Cosa succede? Allora, il discorso è proprio questo. Noi abbiamo dei numeri che in qualche maniera si evincono perché sono i reati, gli illeciti che sono stati scoperti. La realtà dei fatti purtroppo è ben maggiore, perché c'è uno studio dei vigili urbani di Milano che per esempio ha già a Milano imputa un 8% di veicoli senza assicurazione. Il problema è legato da una parte alla criminalità, che proprio per il caro polizze oggi vede nella polizza falsa un mercato molto semplice e un mercato che può essere aggredito anche grazie, e purtroppo su questo, non per essere sicuramente razzisti, ma soltanto per identificare un problema, e su questo purtroppo gli immigrati sono i primi clienti. Allora, sì, la polizza falsa, chiaramente se metto un tagliando sulla macchina e mi comporto da conducente corretto non succede niente, nel senso che finché chiaramente non vengo scoperto non mi succede niente. Nel momento in cui sono protagonista di un incidente stradale e lo provoco ovviamente con l'assicurazione falsa, è chiaro che provoco dei danni molto importanti alla persona che poi rimane vittima di questo incidente, e se il danno fosse enorme per questa vittima, l'unica soluzione per essere risarcita è proprio quella di andare a rivolgersi al fondo di garanzia per le vittime della strada. Che cos'è questo fondo, Premuti? Assolutamente sì, questo è per fortuna un retaggio della legge del 1969 sull'assicurazione obbligatoria. È forse l'unica cosa che rimane di mutualità vera all'interno della legge sull'assicurazione obbligatoria. Il fondo interviene in tutti quei casi in cui o il responsabile non è identificabile perché è scappato, e questo anche è un fenomeno purtroppo oggi molto presente, o perché la compagnia d'assicurazione è stata messa in liquidazione coatta, quindi è fallita, o perché anche se identificato il conducente non è assicurato. Oggi tra l'altro interviene anche per un caso in più, laddove il veicolo che ci abbia causato il danno sia stato un veicolo che posto in circolazione fuori dalla volontà del proprietario. Quindi rubato. Ecco, questo è importantissimo, perché è chiaro che questa è una norma di civiltà in quanto non lascia per strada nessuno. Però se da una parte è civile, in un paese civile, in alcune aree di questo paese, del nostro, è stato preso come un ammortizzatore sociale. Quindi si ricorre al fondo. Intanto sul mercato degli tagliandi falsi, l'abbiamo detto, ma molto spesso anche per denunciare falsi incidenti, e qui che Napoli la faccia un po' da padrone, la Campania la faccia un po' da padrone, purtroppo lo vediamo anche, credo, oggi dall'articolo proprio di Maurizio Caprino. E infatti, allora, non riusciamo ad approfondire adesso le modalità con cui si può fare la richiesta appunto di essere risarciti a questo fondo, ma mediamente, Premuti, che cosa fa? Ci pensano, è il meccanismo delle assicurazioni che interviene, chi va a fare la richiesta direttamente al fondo? Per l'utente è semplicissimo, il fondo di garanzia vittime delle strade è gestito dal CONSAP, che è una società per azioni pubblica, unico azionista Ministero del Tesoro, quindi parliamo di pubblico. Il CONSAP, ovviamente tramite un decreto, vengono individuate per ogni regione le compagnie che si occuperanno della liquidazione sinistri, e tutto funziona come per le normali liquidazioni dei sinistri, quindi la compagnia interviene, farà gli accertamenti, ovviamente identificherà quelli che sono gli aventi diritto, perché in molti casi parliamo di danni fisici, quindi anche di persone che possono essere decedute, e poi provvederà alla liquidazione, ovviamente dopo aver sentito il costo. Certo, dopodiché il fondo deve anche rivalersi contro eventualmente chi ha, come si dice, cagionato il danno, e lì la questione si fa un po' più complicata, perché tante volte rintracciare i responsabili appunto degli incidenti, visto che interviene proprio in situazioni problematiche, è molto complesso. Allora ci approfondiremo la questione magari in una puntata di Salvadanaio più avanti. Premuti, per adesso la ringrazio, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Allora, però insomma, stamattina sul Sole 24 Ore c'è tutto ciò che riguarda questo fondo. Alessandro, alle 12 rubo un altro tema del Sole di questa mattina: tutti i passi da fare per assumere la colf e il collaboratore ladra. Va bene, allora noi parliamo oggi di omeopatia. Nei giorni scorsi è morto, 101 anni, Antonio Negro, medico considerato patriarca dell'omeopatia in Italia. Insomma, ci ha rilanciato questo tema. Ma voi vi fidate dell'omeopatia? 11 milioni di italiani la usano, eppure molti medici dicono la medicina ufficiale cosiddetta, dice, è una bufala. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Vediamo le notizie in primo piano. Innanzitutto andiamo a Mosca, dove stamattina si sono verificate due esplosioni nella metropolitana in altrettante stazioni della linea rossa. A quell'ora ovviamente molti pendolari, sono 37 le vittime finora accertate. Per gli investigatori si tratta senza dubbio di un attentato terroristico, forse a opera di due kamikaze. In Italia invece è il secondo giorno di voto per le regionali. Vi ricordo che alle 15 si chiudono le urne. Da quel momento inizierà un lungo speciale di Radio 24 con tutti i risultati. Secondo il quotidiano La Repubblica, il presidente della regione Sicilia è indagato dalla procura di Catania per concorso esterno in associazione mafiosa. Il presidente lombardo è indagato col fratello, avrebbe avuto contatti con i boss della mafia catanese. Infine per il calcio, nel posticipo di campionato ieri sera il Milan non va oltre l'1-1 in casa con la Lazio, la classifica vede così l'Inter in testa, la Roma che è dietro di un punto, i rossoneri a meno 3 dalla vetta. Nel pomeriggio la Juventus vince 2-1 ma è contestata e Zebina è stato anche colpito da uno schiaffo da un tifoso. E allora alle 8:32 minuti parliamo oggi del nostro sondaggio di omeopatia, seguita da 11 milioni di italiani, più o meno queste statistiche, ma sempre così dibattuta, discussa. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Bianco o nero è tra di 24.it. Allora, abbiamo preso spunto dalla scomparsa la scorsa settimana, 101 anni, del dottor Antonio Negro, che è considerato in Italia uno dei patriarchi dell'omeopatia. Questa omeopatia che è sempre al centro delle polemiche. Quando escono delle ricerche come qualche anno fa su Lancet, rivista scientifica, nella quale si diceva l'omeopatia assolutamente è una truffa, l'omeopatia non funziona, la reazione è sempre di due tipi. C'è chi la usa e dice possono dire quello che vuole, io mi curo con l'omeopatia, e invece ci sono quelli che dicono avete visto, è la conferma che è una bufala. Allora, voi vi fidate dell'omeopatia? Questa è la nostra domanda semplice. Io parto da una posizione di estrema ignoranza e dunque sono contento di ascoltare due persone che la pensano in modo contrapposto. Il professor Silvio Garattini, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno che dirige a tutti. L'Istituto Mario Negri, e voglio salutare invece il professor Andrea Valeri, buongiorno, è direttore scientifico della Società Italiana di Medicina Omeopatica. Buongiorno Valeri. Buongiorno, comunque sono un dottore, non un professore. Dottore, va bene, vede che parte da una posizione di ignoranza, l'avevo detto. Allora, io partirei da Garattini. Garattini, lei sostanzialmente è sostenitore di chi dice neanche dovremmo dire medicina omeopatica, cioè l'omeopatia è nulla e dunque cura nulla. Questo è in maniera molto drastica, posso ridurlo così? Sì, in fondo si tratta di questo, cioè noi abbiamo in Italia circa 30.000 prodotti classificati come omeopatici e si tratta tutta di una situazione autoreferenziale perché nessuno mai di questi prodotti ha messo a disposizione una documentazione che abbia un valore scientifico sulla sua attività, nessuno di questi prodotti è mai stato esaminato dall'autorità regolatoria, appunto perché questi prodotti non vengono considerati farmaci. Sono dei prodotti che appunto vengono assunti da molti, non da 11 milioni, perché sapendo qual è il fatturato si può ricostruire che non sono 11 milioni sono di italiani, ma sono probabilmente intorno, forse meno di un milione, e questo diciamo non vuol dire che non sia un numero significativo. Addirittura lei dice meno di un milione, ma io 11 milioni l'avevo trovato come statistica. Sì, ma questi sono quelli che almeno una volta si sono avvicinati all'omeopatia, poi dopo se ne sono andati. Quindi diciamo chi la segue in maniera certo, continua sono guardando naturalmente i fatturati che sono noti, si possono fare dei calcoli, da questi certamente risulta che non sono 11 milioni. Allora, le sottopongo questa dichiarazione di Walter Masci, che ho preso dalla Stampa, fa parte di numerose commissioni ministeriali sulle medicine alternative, ma è anche è un medico chirurgo, laureato nel 78, dice Walter Masci... Non ho dubbi, non so spiegare come sia possibile, ma l'omeopatia cura anche con un dosaggio minimo. È uno scienziato, è un medico che dice questo, professor Garattini, lei che ne pensa? Cioè non ho dubbi, non so spiegare come sia possibile, ma è così. Chi dice il contrario è un cialtrone. Va bene, questa non è una posizione scientifica, è una posizione dittatoriale che appunto non fa parte della scienza. In realtà non ci sono delle documentazioni e è anche implausibile che ci sia questa attività, perché bisogna considerare che tutti i prodotti omeopatici che hanno una certa diluizione non contengono più neanche una molecola del prodotto originale, quindi come qualcosa che non contenga nulla possa essere diciamo efficace in una grande varietà di malattie è certamente molto illogico, è contro tutto quello che sappiamo. Spetta a chi vende naturalmente dare la dimostrazione. Fino adesso questa dimostrazione non è stata data e certamente non, finché non ci sarà, è logico che uno pensi che questi prodotti agiscono, se agiscono attraverso la suggestione, ma soprattutto non agiscano attraverso il loro contenuto, ma agiscano semmai attraverso l'interesse che il medico dimostra per il paziente, che è pur sempre una delle modalità con cui si possono ottenere dei risultati. Allora, il principio è talmente diluito che alla fine non se ne può dimostrare, non vi può essere nessuna efficacia. Valeri, repliche su questa? È una delle accuse che spesso si fanno sempre di più all'omeopatia, dire è talmente diluito che, voglio dire, la molecola non c'è più e quindi semmai c'è un effetto placebo, di suggestione, psicologico, ma in realtà non cura nulla. Valeri. Dunque, intanto va detto che, rispondendo in maniera un po' ampia, non è assolutamente vero che sui medicinali omeopatici non c'è documentazione e il Ministero della Salute altrimenti ovviamente non li terrebbe in commercio. Secondo punto, abbiamo delle sperimentazioni già fatte addirittura da 100-150 anni, scritte, documentate, ripetute, che documentano l'azione di questi medicinali. Per quanto poi riguarda il problema della diluizione della sostanza o meno, dobbiamo ricordare che i medicinali omeopatici sono delle soluzioni acquose, quindi c'è una certa quantità di sostanza, che è appunto il soluto, e poi dopo c'è il solvente, che è quello in cui si scioglie. In buona parte dei medicinali omeopatici in commercio ci sono delle sostanze attive e queste possono benissimo avere un effetto biologico, come è stato dimostrato anche recentemente, seppur in maniera indiretta, anche tramite alcuni effetti collaterali che seppur raramente si vedono, quindi c'è indubitabilmente un'azione biologica. Per quanto riguarda poi i medicinali omeopatici molto diluiti, iperdiluiti, dobbiamo appunto ricordare che l'azione biologica può dipendere benissimo anche dal solvente, in questo caso dall'acqua, ed è stato ripetutamente dimostrato, non da noi omeopati, guardate bene, ma per esempio da un professore di chimica fisica dell'Università di Napoli, su con circa 20 lavori pubblicati su riviste internazionali, che l'acqua omeopatica, cioè l'acqua sottoposta a preparazione omeopatica, è radicalmente e stabilmente diversa dall'acqua di partenza, secondo delle costanti chimico-fisiche ripetibili e dimostrabili e sperimentabili, per esempio pH, temperatura, resistenza e via. E quindi cura? E questa è la prima spiegazione dell'azione biologica, quindi non è vero che non succeda nulla. Succedono degli eventi chimico-fisici dimostrati sperimentalmente. Certo che bisogna andare a guardare la letteratura e discutere di questo. Sono sul dimostrati, perché il professor Galantini dice non c'è nulla di dimostrato. Ci sono 20 articoli pubblicati su riviste internazionali essenzialmente non di omeopatia, che dimostrano questi effetti. Vediamo, questi 20 articoli lei, professor Galantini, li conosce? Sono almeno questi... Una ventina, ovviamente. Sì, una ventina. Lei, professor Galantini, li conosce? Il fatto che siano pubblicati degli articoli non vuol dire niente, cioè bisogna vedere dove sono pubblicati e bisogna vedere quali sono le conferme che sono state date agli articoli, cioè non è questo il modo con cui si ragiona in campo scientifico. In campo scientifico si ragiona facendo delle ipotesi, dando delle dimostrazioni e poi sulla base delle dimostrazioni cercando di contestare le affermazioni è solo quando a ripetute studi, analisi, sì, eccetera, quando non si riesce a contraddire un risultato, che si comincia ad accettare quel risultato come valido. In realtà l'omeopatia agisce in un suo, i cultori omeopatia agiscono in un loro mondo, non pubblicano mai le loro, i loro dati sulle riviste scientifiche accreditate. Questa è un'altra accusa che viene fatta. Io, ma poi scusi, mi permetta, sì, vorrei dire un'altra cosa, cioè noi abbiamo lanciato spesso delle richieste. Intanto lui parla dell'acqua, la maggior parte di questi preparati sono delle pillole, quindi l'acqua non c'è. La memoria dell'acqua, che è stata sviluppata come elemento di validazione dell'omeopatia, in realtà non è stata mai dimostrata, anzi la ripetizione di quei risultati ha dato invece risultati negativi. E poi prendiamo tutti questi boccettini che ci sono nelle cose, nelle farmacie che vengono venduti, sì, tutti questi boccettini, noi possiamo cambiare le etichette e nessuno mai è in grado di dimostrare che sono, che abbiamo cambiato le etichette. Insomma, queste sono le accuse molto, molto dirette. Diamo prima qualche ascoltatore, poi torno al dottor Valeri, all'800 24 0024. Paolo dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Che dice? Buongiorno, ma io non voglio parlare di cose scientifiche, voglio solo dare la mia esperienza, naturalmente, di una figlia che è stata, da quando è nata, che era intollerante a vari alimenti, è stata curata da un omeopata che, tra le altre cose, prestava servizio in un ospedale nel reparto di neonatologia da 20 anni, che però, lui afferma di seguire una certa medicina. Beh, mia figlia, se stava al medico di base, avrebbe preso nel corso di 5 anni, secondo le sue affezioni, almeno 5 o 6 volte gli antibiotici. Sì. Non l'ha mai preso, ha preso una volta sola, e devo dire che è stata bene, perché comunque noi consultavamo prima medico di base e poi il medico omeopata, ma per vari motivi poi potevamo lasciare. Si fidava dell'omeopata. Voglio dire, ma le chiedo, lei è così sicuro che sua figlia stia bene perché è legata alla scelta dell'omeopata rispetto? Questo no, le posso dire solo che quando aveva delle infezioni virali, a cui gli si dava un estratto, se non mi sbaglio, di belladonna, comunque molto diluito, omeopatico, la febbre se ne andava. Stava meglio, va bene. Quindi non è che, quindi non credo. No, lei dice, dalla sua esperienza empirica, insomma, toccata con mano tutti i giorni, si fida dell'omeopatia. Grazie Paolo, voglio andare a Novara da Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Volevo semplicemente dire che io porto anch'io la mia esperienza, quella relativa alla moglie, mia moglie, che ha provato a curare il diabete con l'omeopatia. Le dico che l'omeopatia, oltre ad agire a livello appunto medicinale, anche a livello psicologico viene coinvolta la persona. Cioè mia moglie ha perso qualcosa come 30 kg in 4 mesi, con glicemia alle stelle, e non c'era verso di farla smettere. Insomma, non è andata bene questa cura con l'omeopatia, mi pare. Assolutamente, non le dico il lavoro che è stato dovuto fare da me, dalla sua dottoressa di base, per convincerla a fare l'insulina. Va bene, grazie Marco. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Vi fidate dell'omeopatia? Devo dire che per ora il 60% dice di no, quindi insomma prevalgo i no, anche se di poco. Dottor Valeri, al di là delle esperienze singole, l'ho provata, funziona, non l'ho provata, non funziona, questo poi si vedrà. Intanto ci chiede qualcuno via sms, ma per avere i prodotti omeopatici, cioè cosa sono, i dottori, sono gli omeopati che li prescrivono, non serve la prescrizione? Mi dica questa cosa proprio di servizio, cioè se uno... No, è stato già stabilito che l'omeopatia è un atto medico a tutti gli effetti, quindi la prescrizione deve essere fatta da medici competenti che abbiano studiato a lungo e siano preparati, questo per la sicurezza del paziente ovviamente. Va bene, alle accuse, insomma, ha sentito, c'è chi dice che è un po' l'accusa anche forte, non solo non serve l'omeopatia, a volte per qualcuno imbracciare l'omeopatia vuol dire trascurare la medicina tradizionale, quindi aggravare una situazione come quella che è successa alla moglie del nostro ascoltatore di Novara. Guardi, allora qua tratta essenzialmente di incompetenza del singolo medico e non tanto dell'omeopatia. Io che sono anche professore di omeopatia, che ne insegno, noi diciamo che in patologie in cui c'è bisogno di una terapia sostitutiva, come nel diabete, l'omeopatia non può in nessun modo sostituire l'insulina, è la prima cosa che diciamo. E diciamo che può essere aggiunta alla terapia insulinica o di questo tipo per cercare di migliorare la situazione globale del paziente. Questa è la prima cosa che viene detta in tutte le scuole. Se poi c'è qualche singolo medico, diciamo, incompetente, è un problema del medico e non dell'omeopatia in quanto tale. Quindi questo va detto con molta chiarezza. Quindi questa è la tipologia di risposta. Cioè anche voi dite assolutamente mai sostituire l'insulina nel caso del diabete con l'omeopatia. Ma scherzi, addirittura... Io faccio parte di un gruppo di lavoro che supera la sanità sugli effetti collaterali, quindi ci poniamo il problema della sicurezza e quindi diciamo la messa in sicurezza del paziente è la prima preoccupazione. E in omeopatia i testi anche classici sottolineano questa cosa, che appunto per le patologie in cui c'è bisogno di tipo anche dell'ipotiroidismo e così via, l'omeopatia ha un'azione complementare non sostitutiva, come è ovvio. Vediamo alla andiamo in provincia di Caserta, dove c'è Luigi, buongiorno. Buongiorno, salve. Che dice? Saluti a tutti. No, volevo, cioè da operatore sanitario, che sono farmacista, ecco, quindi posso raccontare la mia esperienza, anche di studio evidentemente, perché la formazione universitaria è quella classica, quindi impostazione sugli studi farmacologici classici, no? Come avviene per la medicina. Solo che io credo che bisogna parlare un po' di integrazione, cioè nel senso che la medicina deve essere vista in modo unico, quindi non ci devono essere queste separazioni, anche perché in effetti alla base di tutto c'è l'uomo, la persona. Quindi nel momento in cui io riesco a curare, riesco a fare del bene al mio utente. Quindi, ecco. Ma è questo è come secondo lei voglio dire? Allora, cioè, ci vorrebbe un'interazione tra non solo la medicina convenzionale, no, ma... Ecco, l'omeopatia in effetti, anche dall'approccio col paziente, ha un approccio più olistico, cioè tende più ad ascoltare il paziente. Curarlo anche e questo lei dice è un pregio. Io la prendo, grazie Luigi, la prendo questa sua osservazione per girarla a Garattini come critiche, se vuole, alla medicina ufficiale. Non è che molti imbracciano anche l'omeopatia proprio per questo approccio, che magari nella medicina tradizionale non c'è più, si va dal medico, ho questo, via, una ricetta medicinale a casa e arrivederci, insomma, se va tutto bene. Beh, credo che se vogliamo criticare la medicina ufficiale, forse io ho qualche titolo per averlo fatto, sì, e per continuare sì a farlo. Quindi... Lei è uno di quelli che dice, per esempio, che tantissimi medicinali in commercio non servono a nulla. Certo, come non serve a nulla l'omeopatia, non è che faccia distinzioni perché medicina ufficiale deve essere attivo. Ogni cosa deve essere utilizzata sulla base della sua reale efficacia, non possono valere aspetti, diciamo, soggettivi. Anche i maghi sono convinti che fanno del bene a quelli che si rivolgono a loro, ma non per questo è dimostrato che i maghi possono predire il futuro. Anche quelli che fanno gli oroscopi pensano di essere utili, ammesso che siano in buona fede. Però questo non vuol dire che si possa, diciamo, sapere che cosa succederà. Sa cosa ci scrive un ascoltatore, professore? Ci scrive: chi non accetta l'omeopatia è come chi non accettava che la terra fosse tonda perché la vedeva solo piatta. Insomma, cioè quasi no. È proprio l'inverso, cioè che in realtà la scienza ha documentato che per fare qualcosa deve essere presente qualche principio attivo. E se non c'è adesso, diciamo, l'omeopatia ha un po' virato, perché in qualche modo dice ci integriamo, ma l'integrazione vuol dire che se aggiunge un prodotto omeopatico o un farmaco che è già attivo si vede un'attività, ma bisogna distinguere a che cosa è dovuta l'attività. Cioè dice il farmaco serve naturalmente, e poi se uno ha fede crede che sia stato il farmaco, il prodotto omeopatico, anziché il farmaco che invece non sempre, perché non, ma in alcuni casi il farmaco può fare può dar luogo a un'efficacia. Sì, questa era l'obiezione che volevo fare anche a Valeri. Dottor Valeri, se lei dice che nel caso del diabete ci vuole l'insulina ma anche un prodotto omeopatico, diciamo, per migliorare la condizione della persona che viene curata, non è come dire, il professor Galattini dice certo l'insulina serve e il prodotto omeopatico è una cosa che non serve a nulla, però viene data, è come bere un bicchiere d'acqua insieme all'insulina. E come si fa a verificare che anche il prodotto omeopatico ha una sua efficacia? Il concetto è a questo punto che bisogna fare degli studi in cui si verifica che in una parte dello studio si dà solo la medicina convenzionale e in un'altra parte dello studio si può dare la medicina convenzionale unita alla medicina omeopatica. Alcuni di questi studi cominciano ad essere fatti e si vede in molte situazioni che l'omeopatia dà un beneficio aggiuntivo al paziente. Detto questo, volevo ricordare a questo punto che quello che interessa di più ai pazienti, là delle dispute teoriche interminabili, e cioè che come stanno le persone che si curano l'omeopatia. Ecco, su questo c'è uno studio recentissimo, uscito circa un anno fa, fatto da un'equipe molto prestigiosa dell'Università di Berlino, uno dei più grossi centri di ricerca a livello europeo, su circa 3.700 pazienti, fra adulti e bambini, studiati per 8 anni di seguito, quindi un'unità di tempo. Bene, è stato adulti e bambini, 2.722 adulti e 819 bambini, pubblicati su una rivista internazionale indicizzata in PubMed. Bene, allora è venuto fuori che dopo 8 anni la severità della malattia, il livello della malattia di queste persone in media si è ridotto di circa un terzo sia negli adulti che nei bambini. Quindi questo è un dato pubblicato, confermato, su 3.700 pazienti. Lei, professor Galattini, questo studio... Sì, ma dove erano i controlli? Cioè queste cose qui sono tutte delle cose che non hanno nessuna base scientifica. Cioè per dire che qualcosa è attivo bisogna fare dei confronti. Non è che si può stabilire così su un gruppo di persone... bisogna stabilire quali sono i controlli. Vediamo ancora due ascoltatori, se ce la facciamo. Simone da Asti, buongiorno. Buongiorno, dunque, questa è la mia esperienza. Io ho una bambina che ha sviluppato una forte patologia alla pelle, abbiamo fatto di tutto, poi per disperazione siamo andati da un omeopata. Io ero un po' scettico, molto scettico. Fatto sta che per farla breve è stato l'unico che è riuscito a trovare cause, poi confermate più avanti da altri medici tradizionali strapagati, e comunque sia... Io davo mia figlia anche forti patologie, tosse e così, e bisogna solo curare con antibiotico e cortisone. Dato antibiotico e cortisone, la pelle peggiorava da cose. E invece con l'omeopatia? Con l'omeopatia, niente. 2 settimane di cortisone per curare la tosse, 2 settimane di prodotti omeopatici mi curano la tosse. Va bene, insomma, ma certo, poi sono esperienze. Francesco da Frosinone, questo è interessante, perché poi ognuno, cioè si può parlare per ore e ore e ore, poi ognuno ricade sempre a dire: io ho curato così mio figlio, mia figlia, mia madre, e funziona, l'ho curato, non funziona. Vabbè, Francesco da Frosinone, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Quando mi chiedo di intervenire, no, ma io veramente volevo semplicemente dire una cosa. Io sono molto contrario all'omeopatia e agli cioè al discorso dell'omeopatia. Sì, perché? Per una semplice ragione, secondo me spesse volte, io non ho un'esperienza diretta perché non ci sono mai capitato, però per quello che intuitivamente si può capire, spesse volte il discorso dell'omeopatia coincide con un percorso naturale. Perché poi cosa succede? Quando la patologia è grave, allora anche l'omeopata ricorre alla medicina, alla scienza, alla tecnologia e a tutto ciò che rientra nella medicina. E allora lì poi la medicina va bene, la scienza va bene, la tecnologia va bene, tutto va avanti, tutto ciò che migliora, diciamo così, la salute dell'uomo, allora tutto quanto è buono, tutto quanto è bene. E questo secondo me è una cosa che non si può... Ma secondo lei questa è una posizione, non dovrebbe essere una posizione di, insomma, più cautela e intelligenza, oppure lei lo vede una posizione critica, come dire, vi fa comodo quando c'è la medicina, no? Io in via del tutto preliminare, all'inizio della mia telefonata, ho detto che io sono abbastanza contrario all'omeopatia, quindi chiaramente non posso... È chiaro che molte volte, io vedo che spesse volte, anche per esperienze indirette che conosco, molte volte queste cose, questi miglioramenti, queste buone notizie da parte dell'omeopatia corrispondono a percorsi naturali, dove ovviamente poi no, più di tanto non si può arrivare. Un tumore non si può curare con l'omeopatia. Vabbè, ma questo, questo è abbastanza chiaro, però lo dicono anche gli omeopati, non perché se no, voglio dire, come dice il professor Garattini, ci sono anche i maghi che ti dicono che un tumore si cura con andando a fare la magia o la cartomanzia, però insomma di pazzi ne è pieno il mondo, che dobbiamo fare di quello? Un omeopata serio non dirà mai che un tumore si cura con l'omeopatia. Comunque mi devo fermare ringraziando il professor Garattini e il dottor Andrea Valeri, insomma il tema è dibattuto e rimarrà dibattuto per chissà quanto, e tanto poi la posizione è sempre quella: chi la usa la usa, e chi non la usa non la usa. Va bene, ci fermiamo, intanto vi fidate dell'omeopatia, per ora vincono sempre i no al 59%. Ringrazio Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea a Oscar Giannino. Oh, mi raccomando, dalle 15, chiusura delle urne, lungo speciale di Radio 24 sulle regionali, anche noi domani parleremo di regionali, non ci saranno sondaggi, ma insomma uno speciale sui risultati del voto. E allora do la linea a Oscar e noi a domani.